Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Diverse iniziative da segnalare anche in questa puntata. Il tema del volontariato, la proposta rivolta in particolare ai giovani e coloro che abbiano voglia di dedicare un po' del proprio tempo a chi ne ha bisogno, a chi cerca occasioni in cui spendersi per gli altri o chi desidera iniziare un'attività di servizio. L'appuntamento si può prendere presso la Caritas di Padova al numero 049 877 17 722, oppure scrivendo una mail a young@caritaspadova.it. Lo sportello di orientamento appunto è aperto soprattutto ai giovani che abbiano la disponibilità e la voglia di mettersi in gioco. L'incontro di orientamento poi è senza impegno, ciascuno poi potrà decidere se e dove iniziare a seconda delle indicazioni. Comunità che innovano è un'esperienza formativa della durata di 2 anni con l'obiettivo di fornire gli strumenti per diventare attori di innovazione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo locale attraverso 4 visite di studio in Italia, 3 in paesi europei, momenti di formazione sui temi dell'economia civile e l'analisi dei bisogni dei territori. I partecipanti inoltre saranno formati all'attivazione delle comunità locali, alla narrazione e alla comunicazione dei progetti. Sono previsti anche degli stage in progetti sociali esistenti nel territorio di appartenenza, laboratori di arte sociale in ambito provinciale o regionale e l'elaborazione di proposte di azioni e mentoring per lo sviluppo di queste azioni. Il progetto è pensato per i giovani interessati a operare nel sociale come volontari, cittadini, giovani imprenditori, operatori del terzo settore o del settore pubblico, enti locali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comunitacheinnovano.it, scritto senza accenti. È un progetto nazionale promosso dalla Caritas per la formazione dei giovani tra i 18 e i 25 anni sulle nuove forme di intervento contro la povertà e per lo sviluppo dei territori. Il primo bando è già stato chiuso, è previsto un secondo bando nel 2017. Le attività già avviate a maggio di quest'anno e previste fino al settembre dell'anno prossimo coinvolgono i territori di Torino, Biella, Saluzzo in Piemonte, di Verona in Veneto, di Trieste in Friuli Venezia Giulia, di Senigallia nelle Marche. 2 anni appunto di percorso, tutti i costi, incluse le visite studio, sono coperti dal progetto. Partecipanti è richiesto di sottoscrivere una tessera annuale. Ripeto il sito dove si possono prendere ulteriori informazioni in vista appunto del secondo bando che sarà nel 2017, www.comunitacheinnovano.it. Ricordiamo invece un appuntamento più vicino nel tempo e nello spazio, appuntamento con le 10.000 ore di solidarietà. Si svolgeranno dal 25 al 27 novembre. 10.000 ore è il totale appunto delle ore di solidarietà, di volontariato messe in campo e a disposizione in quel fine settimana da tantissimi giovani. Verosimilmente il totale sarà molto superiore. Siamo alla 3ª edizione di questo progetto che è rivolto agli adolescenti, quindi anche ai minorenni e ai giovani della diocesi di Padova. Le iscrizioni sono già aperte, il sito in questo caso è www.10.000ore.it. 10.000 è scritto in cifre. Si parte dalle 17 di venerdì 25 novembre per chiudere 48 ore dopo alle 17 di domenica 27 di novembre. Il totale delle ore appunto farà 10.000, ma l'obiettivo di arrivare a 20.000. Ci si può iscrivere singolarmente oppure anche in gruppo, e proprio sul sito 10.000ore.it c'è il modulo di iscrizione. Possono partecipare anche i giovani dai 14 anni se iscritti in gruppo, i maggiorenni invece possono iscriversi anche singolarmente. Un gruppo è composto da almeno 5, da massimo 5 persone, che abbia almeno un referente maggiorenne che accompagni tutti gli altri per la durata del progetto, comprese appunto le 2 notti. notti del venerdì e del sabato. La partecipazione è gratuita, il termine delle iscrizioni il 28 di ottobre. I partecipanti devono raggiungere autonomamente le sedi dei luoghi appunto dove saranno destinati, e questa è la caratteristica di questo progetto, cioè di non sapere fino al momento dell'inizio di questo weekend dove e in quale attività si sarà destinati. Gli enti che accolgono queste proposte sono tantissimi, sia nel mondo ecclesiale che nel mondo sociale. C'è anche la possibilità di aderire come ente accogliente, oltre che chiaramente come partecipante. Si andrà come attività dall'organizzazione di una festa per gli ospiti di una casa di riposo, la ristrutturazione di uno spazio, la realizzazione di un cortometraggio su questioni sociali, alla pulitura di uno spazio verde, di un parco, di un giardino, alla conduzione di un'azione informativa sul commercio equo e solidale. Tutti i dettagli, informazioni e contatti, lo ripeto, sul sito www.10.000ore.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.